primavera. Oh, che bella giornata, che ciel de primavera, che sun de buona cera, oh, finalmente se fiada. Magun, rogn, trebuleri, se Dio veri in passà, oh, tu desmentegà. Adès, studi, Frigeri. Mi non sono anche più, se ghe al mondo, citazion, pretur, conciliazione. Mi ricordi più di una got. Mi vuos pas. Due vu? Se su un'anca, a se tam su una banca, ai giardin, forse pas, pasin. Sì, vuoi giardin, a sfreguiai michet a quei povero chet, a quei bei anedrin, a quei car pelican, che stan lì a fa de scorta al carlin, a quel porta de sas, puer patan. La sem quiet con sta gloria de sul de primavera, se va spas vulentera, se che no la sucoria, la sen sta. Vu de bas? Tu è che te ve? Ah, se il suminga, te se, se va fuori in sci a spas. L'enci bel zundria, cusa quinta crusias, lavura, mi vos pas. E se andasse a trovare il Pier Giorgio? Ma sì. Ah, anche lui, che de fa, in sti di, che de fa. Già, l'è un po' come me. Caro ciel, con stu tem benedet, san se sia, sei al cu che va via, che mutura du temp, che per un e che can de latrin pianta li tut, che questi indi più se bei de tut l'an. Va che ciel, che spasada, sent che arieta leggera propri de primavera, oh, finalmente se fiada. Me pader, anche lui, le visciura sentis tutte vedin. Che chi bei giornat fa più frec, il dis. Vera Clara, con stu temp, se per sta senza stuf, lasci andà, che sparmesso un para de quintai de carbon. Benedetta la tua faccia, o sul, ti oscura di secad, di magun. Già da un po' mi gavevi un quai cos d'enterchi, come ados, sui a me un cosmar. Che vorrevi forse bene a quei dun. Ah, ma in che son guarì? Ah, son proprio guarì de stu mal. Più nessun d'enter chi, duma mi, più nessun. Vera ti? Basta vun de sti guai, vera ti? Basta vun, son crusun, pensi più tut miseri. Va, va, va spas. Se il Frigeri te specia, padrone. Capi il luster, vu via, via de chi che son stuf, de stu tanf, de stu muf de sarà, via, via, de sti mur, de sti prei, via de tut, sti danà, che se usme nel fia, e che per quater gay la s'engio i pantalun e se scalden la pisa, Dio vestra maledisa, con sti voster presun, dove par che se mura un cicin, tu ti di. Via de chi, via de chi, ciapi e luster, vu fora, in campagna, laggiò con ti besti vuoi sta, e il viram mi vuoi fa, pensa più, se se pe, da guntai, queste credet, non son buon? Ah, gerivi, giura di se gerivi. Stamattina, te vedet, mi son viscior, legger, con chi nivu là, che va... Che va, che va. E a pensà d'uma ier, vera? Là, te dormì, te fa un sogno. No, de sedet, stamattina te vedet, mi son quiet, infinì magun. Mi me senti una veia, come de saltà. Un so che de ariuru. mi diventi una gala, un piumin, un voulevant. Ma sì, vu per aria anche a me, come il sciur celestino Juel. Set moti, indicos le cavic, se sa ben, la vagic. Parta, adesso mi son chi, in l'ulmet. E bugiò de chi, e là, sul canton di piat. Combinazione, trevidù pupò. Nichelit, legrieux, rizzolit, do crapet, che discut, do facet, ne? Tel set, o fiei, se ve pedi catave fu andà a bagnmaria. Tu te dù in poesia. Stamattina, che sa, se mi invena, sperem. Oh, des. Trac, trac, du bechin, sì signor, du bechin. Cristianin, cosa che è mados, disi, ti lì, che me vegni in sui cai, e pes nascantunai, son più a temp. Guardi lì, che cadaver in pe, di angel custod, lung, dris, sec come ciod. Vai a non fino ai pe, faccia scura, tirada. Quante rive nados, metten frecci in dios, come un liber de là da negri. Vegnen. Quei ti, par chi dise. Sem chi? Chi l'è mort? Tel seti? Se te vet, non sen chi è. In passà. Tira il fià, due van, chi la sa? Per l'ulmet, giù de là, tira il fià che in passà. Ma non serve, pas, allegria. Be saluti, sciurroc, menda tutti in sui broc, adesso. Va, va, sanse sia. Già, è questa la sort. Mi son chi in via Turin che vos pas, e i becchin van in cerca del mort. Che intratante in sul let. Oi, tasche il vedi. Le là in vina di sticà, che specia, quiet. Cum da lì, tra un para de candil e domone, con la cruz in sul stomac, e in stifelius. Magara. Niente fac. Niente fac. Intratanto che mi forsero là su tai piant, ascoltai parasciur che canta. Per lui, adesso, stili gri, intraquater, filoster, ingesa. Pater noster, requiescant, elitani. L'el destin, le destin. Un'oretta anca moe quam mi sarugiò su una banca, ai giardin. A pensà che stu mund, ma cosa serva crusias, tras inturna anda spas, ures ben, se poi in fund. Va, le tut lavorà per la gesa de vaver. Intratanta e il cadaver, se di ver, guarda là, va, in tramvai che se invia. Circunvalassium, portavolta, un stradun, una quai usteria. Chi è là? Gen che va, tram che passa, slandruni strapelà dei piantuni, pe. Misoc, semaca. Annibale Covini Gerolamo ha letto Primavera di Delio Tessa, Creative Commons 4.0 International, scritta da Delio Tessa, nel 1932 in pubblico dominio e pubblicata su Liber Liber. Fa parte della collezione L'El di Mort, Alleger, di Delio Tessa.